21 seconda parte. Va bene, basta col postmoderno. Torniamo alla mostra di Losanna di 1992, Post Human. Allora, abbiamo detto Dave è un mercante. Però la sua la mostra è fatta da una, contiene una serie di opere, alcune delle quali anche poco memorabili, perché oggi non si parla di tanto. Io tento a ricordarmi prevalentemente di Natalie Chapman, di quella mostra lì. Però c'erano anche altri artisti, non si parla, ma però non mi ricordo, non le dico, non ho mai capito chi era o chi non era. La cosa importante per me non è la mostra, è che il nome della mostra, Post Human, lascia molta gente scioccata, però desta interesse. Desta interesse perché è l'ennesimo post e sembra che sia il post più radicale di tutti, però. Perché dice, ah, vabbè, siamo postmoderni, post ideologici, post, ma siamo tutti in due posti. No. Le opere che sono, che sono presenti in quel, coso, in quella mostra, a parere di Deitch, sono opere che mostrano che sta cambiando non l'uomo forse in quanto tale, ma diciamo il concetto di uomo o il modo di considerare l'uomo. Forse è utile se andate che vi leggiate, che vi troviate su internet il testo di Deitch introduttivo alla mostra, se avete catalogo, ovviamente sta portato, che non ne avevo citato, ma adesso vi dico. Tu? Mi sembra che io credo di arrivo. Deitch era scritto D-E-I-T-C-H. Jeffrey Deitch, posthuman criticato. Jeffrey Deitch, Ivy, no, allora io ho citato, che stronzo che sono, no, nel senso che avrei voluto mettere un indirizzo, io l'ho presa, io per catalogo non ce l'ho, però ho letto il testo di Deitch su internet, però non lo vedo lì. Allora, se possono interessare, però tipo Beatrice aveva fatto un corso su c'è anche tutte le immagini della mostra, okay. Se vorrei scaricarlo sul sito di Beatrice. Allora no, però c'è qua, l'ho messo. Vedete, andate alla nota 1 del scritto, cioè del capitolo 10. Va bene, sono venuto che lo trovate qua, www.arctic.edu per piccare il posthuman HTML. E infatti l'ho tradotto io, perché io non avendo il catalogo io, ho tradotto il testo inglese che ho trovato sul corso. Comunque andate a guardarlo perché è importante. Ma adesso non voglio parlare della mostra, perché la mostra è solo, come dire, lo spunto. Nessuno in quel dibattito, in realtà, citò il testo fondamentale. Io stesso ancora non... è un testo che l'ho letto, ma in quegli anni non mi venne in mente che era collegato con la cosa. C'era stata già una persona che aveva detto, c'era già stato qualcuno che aveva spiegato che l'uomo non era una, che diciamo la categoria umano non era una, non era l'essenza di niente, insomma, ed era una descrizione di un fenomeno storico, no? E che l'uomo era nato più o meno con la modernità, anzi neanche con l'inizio della modernità, ma con la modernità piena, cioè nell'Ottocento. Il concetto di uomo, come lo pensiamo noi, è nato nell'Ottocento. La persona si chiamava Michel Foucault e il libro si chiama Les mots, les choses, le parole e le cose. Nelle parole e le cose, Foucault descrive esattamente la nascita e gli stadi attraverso i quali passa il pensiero moderno, e il libro è dedicato fondamentalmente a quella che lui chiama il passaggio dalla episteme dell'età classica, che è l'età classica in questo, nella terminologia dei francesi, è il 600, quindi l'episteme cambia dal 600 all'800. Il 700 è un parte di secolo di tradizione, cui è tutto il libro percorre i vari campi nella insomma, seconda parte, diciamo la nascita dell'economia politica, della psicologia politica moderna, della biologia moderna e della economia politica, la linguistica e la l'economia politica, la linguistica e la biologia. Attraverso questi tre campi che non c'erano prima, non c'era nemmeno politica, prima di Riccardo, prima di William Petty, quindi prima del Settecento, insomma. La linguistica, anche prima di Saussure, come vedevano, non c'era, e la storia naturale e la con biologia prima di Pasteur e di Darwin non c'era, insomma, no? Prima si chiamava, c'erano altri nomi perché erano basati su altri concetti. Questi tre campi, queste tre macro aree del sapere che lui individua, portano a quella che lui chiama la nascita dell'antropologia. La cosa importante di questo libro è che è uno dei libri nei quali Foucault, più chiaramente che in altri, dimostra che non esistono oggetti del sapere sganciati dai metodi per studiarli. Ogni volta che nascono nuovi metodi di studio per certi oggetti, essi fanno nascere anche l'oggetto del loro sapere. Quindi non esiste, quindi non è che ci fosse l'uomo, c'era l'uomo, poi è nata l'antropologia moderna e ci ha fatto vedere l'uomo. No, non c'era l'uomo proprio, non c'era l'uomo nel senso in cui l'antropologia lo ha introdotto. L'oggetto di studio uomo nasce insieme con l'antropologia e l'introduzione al libro si chiude proprio con delle parole profetiche perché dice che sono le stesse parole che io cito nel saggetto che vi ho dato all'inizio dell'anno nella introduzione al libro scritto su Darwin postumano, insomma, no? E dice, può essere che ci sarà un momento in cui cambiate nuovamente le condizioni, se si ricreeranno le condizioni analoghe a quelle che alla fine del Seicento determinarono la nascita di un nuovo sapere, cioè del sapere della modernità sviluppata, insomma, che si sviluppa nell'Ottocento, se si creano delle condizioni analoghe, può darsi che l'uomo scomparirà, che il concetto di uomo scompaia. Come è nato, siccome non è un'essenza eterna, siccome è un concetto, siccome è una costruzione, è un pezzo di quella che Foucault chiama l'episteme, cioè quella costellazione di concetti che determinano una cultura, no? Diciamo relativismo, perché vi ho fatto tante pippe sul diciamo, relativismo culturale? Per abituarvi a diciamo, pensare nei termini non che ci siano oggetti dati una volta per tutte e poi metodi per studiarli, ma che gli oggetti di studio nascono e muoiono con i loro metodi, che non c'è nulla di stabile, che non esiste, che è un errore prospettico pensare che c'è un nucleo stabile nelle cose, perché Kant ha fatto giustizia di questa cosa una volta per tutte. Il nome non è riconoscibile, quindi è inutile che tiriamo delle gran seghe pensando di descrivere il nome. Descriveremo sempre e soltanto fenomeni, ma i fenomeni, contrariamente a quello che pensava Kant, ha fatto solo metà del percorso, Kant pensava che poi in realtà si potesse fare che anche questi fenomeni avessero una loro stabilità. Ma dai tempi di Kant ad oggi noi abbiamo capito che i fenomeni non sono affatto stabili, che sono instabili, perché essendo prodotti culturali cambiano con le culture, quindi cambiano con le trasformazioni delle culture. E la modernità in Occidente è la costellazione culturale più rapida, più veloce, più catastrofica nel cambiamento culturale che ci sia mai stato nel mondo. Ed ecco perché credo si spiega perché siamo pieni di post. Siamo pieni di post perché è la cultura della modernità che si rivoluziona in continuazione e quindi ogni volta ci cambia sotto gli occhi diciamo l'oggetto del sapere. E noi dobbiamo, se vogliamo, cioè, quindi il nostro compito, se vogliamo, è quello di capire in relazione alla trasformazione delle idee e alla trasformazione delle pratiche sociali, perché se non studiamo le pratiche sociali non capiremo mai perché cambiano, perché no, se non si viene a Gloriotà, è tutta colpa di Gloriotà, se non si è svegliato male quella mattina, cioè tutta colpa di tutta colpa di Carolina, tutta colpa di quelli che si inventano le cose. No, semplicemente è la realtà, sono gli avvenimenti, gli eventi che ci vengono. Se stiamo un po' attenti e siamo noi che ci svegliamo guarda, invece lì non c'è più quell'acero lì, al posto dell'acero c'è un tasso. Al posto del tasso c'è una guerra, ovviamente non sarà il tipo di guerra per un'altra, insomma c'è qualcosa che è cambiato fuori di noi stiamo solo cercando di descrivere come ce la facciamo, insomma siamo Foucault e Sigliottare un po' meglio di me, non c'è dubbio, insomma nel mio piccolo anch'io ho cercato di descrivere quello che sta cambiando, ma quello che sta cambiando non perché non lo sono inventato io, perché nelle pratiche sociali, perché i comportamenti delle soggettività fuori di noi mostrano che c'è questo, come dire, cambiamento. Ma ogni metodologia culturale che ci porti a fare una dicotomia, una distinzione secca, netta, tra gli oggetti del sapere e i metodi dello studio di questi soggetti è fallimentare. È sperimentale perché tutte le volte noi ipostatizziamo, cioè prendiamo delle cose contingenti e pensiamo che sia la stessa cosa che fa il Papa Ratzinger, che fa la Chiesa Cattolica, quando prende le rispettabilissime e legittime convinzioni morali di una particolare religione, il cattolicesimo, ci dice guardate che questa è la natura dell'uomo, questa è la morale naturale, io non vi dico di non usare il preservativo perché lo dicono perché se no è ovvio che se lui vedesse questo potrebbe pretendere che lo seguano soltanto i cattolici, e i cattolici ormai nell'Occidente, i cattolici in Italia e in Italia sono una minoranza, al di là del fatto di chi è battezzato o di chi non è battezzato, ma la comunità, la gente che va a messa, la gente che fa obiettivamente riferimento, sono una minoranza, molto piccola anche, sempre diciamo crescente, sempre decrescente come bisogna. E allora io capisco che un qualsiasi capo diciamo religioso si trova in difficoltà. E quindi la Chiesa Cattolica ha scoperto questo metodo che è efficace dal punto di vista giornalistico e comunicativo. Non ci dicono più fate così le cose perché dovete essere cattolici, no, fate così le cose anche se non siete cattolici, perché questa è la morale naturale, perché queste sono le cose conformi alla natura dell'uomo, perché questo è l'unico modo di fare le cose salvando la dignità dell'essere umano, e quindi il diritto alla vita di tutti fare qua. E voi capite anche perché, diciamo, gentaglia, farabutti e pirati culturali come, per non fare nomi, Giuliano Ferrara, dichiaratamente atei, possono fare campagne di sostegno alle cose cattoliche, perché loro dicono mica sono cristiano, io dice Ferrara, sappiamo bene che sono, però c'ha ragione il Papa, perché questa è la morale naturale, questa è la natura umana, l'essenza dell'uomo, e dare la rete che siamo lì, se noi presupponiamo che ci sia l'essenza, possiamo parare il gioco dell'essenza, è un gioco a dati truccati, perché posso truccare i dati come quando mi pare a me. Mi piace, con tutto il rispetto che ho per la longeva e rispettabile civiltà cristiana, che ha dato obiettivamente origine alla precedenza, che nessuno lo può spiegare, ma questo è il trucco, questa è la cosa. Sì, è anche un po', cioè nel senso, hanno creato anche un contesto, cioè sono padroni del contesto, cioè non è ovvio, non è sono i padroni, però attenzione, perché sì, se io pur non considerandomi e non credendo io, però sono faccio parte di un contesto. Facciamo parte di un contesto, cioè, ma non è, no, ma questa è la prima cosa che dico nei corsi, ragazzi, se noi siamo tutti figli del cristianesimo, questo è ovvio che dobbiamo comunque riconoscerlo. La questione del contesto, sì, culturalmente è diciamo così, allora però non bisogna, come dire, sottovalutare però il fatto che la società moderna è nata su una separazione tra l'ambito diciamo politico, l'ambito pubblico, sì, dello Stato e religioso, che invece prima erano fusi, no? Erano veramente, ci abbiamo messo secoli, perché ancora nei primi secoli della, come dire, modernità era comunque così, nel ciclo. Però ci sono i riflessi comunque, la democrazia, ci sono comunque, poi per non parlare degli altri, però cioè, ci sono i riflessi, certo. Comunque. Però anche la democrazia cristiana, attenzione, non è né quella, diciamo, storica italiana, né quella tedesca, che è l'altro paese d'Europa in cui ora qui non c'è più la DC, c'è una specie di posto di CDG, però è una banda di affaristi e bancarottieri, diciamo, che si chiama Foro della Libertà, Partito della Libertà, adesso non c'è più la CDG in Germania, c'è ancora. Ma la DC è quella italiana, sono partiti non confessionali, sono partiti laici, che assumono la dottrina, perché a partire dalla metà dell'Ottocento, con Leone XIII, la Chiesa ha cominciato a fare una cosa che prima non aveva sentito il bisogno di fare, cioè di elaborare una sua dottrina sociale. Perché la Chiesa nell'Ottocento elabora, la Chiesa cristiana cattolica, elabora una sua dottrina sociale? Perché comincia a capire che è cominciato il processo di laicizzazione, perché sa che sta diventando minoranza. E allora, mentre prima, essendo automatico, era scontato che la Chiesa cattolica nei paesi cattolici e le chiese protestanti nei paesi protestanti, in maniera diversa, ma più nei paesi cattolici, esprimeva il sentimento comune della popolazione, quindi non c'era bisogno di avere una dottrina sociale della Chiesa, perché la Chiesa di per sé, diciamo, la società civile di per sé era schierata con la Chiesa, era un pezzo della Chiesa, era potere. Quando nell'Ottocento il processo di laicizzazione sulla spinta della rivoluzione francese va avanti e lo Stato si separa definitivamente, finalmente, dalla Chiesa, come aveva già fatto in Inghilterra e negli Stati Uniti, parla con il compagno francese, che è l'ultima delle tre rivoluzioni, e avviene alla fine dell'Ottocento, insomma, più alla fine del Settecento, quindi durante l'Ottocento. A quel punto la Chiesa sente la necessità e quindi fa questa svolta, cioè passa da questa, diciamo, dalla rivendicazione orgogliosa, seguiteci perché siete cattolici, meglio seguire, a questo trucco che deve usare per farsi seguire o per influenzare sull'atteggiamento morale, quindi sulla politica, o perlomeno soltanto sulla politica, perché sa che poi quello che è successo è stato che dal punto di vista della vita quotidiana, della vita privata, reale, il comportamento sociale delle persone ha smesso di uniformarsi ai criteri agli insegnamenti della Chiesa, insomma. Allora, fai la dottrina sociale, fai la cosa, la dottrina sociale che su un sacco di punti è molto avanzata, eccetera. Su altri però, evidentemente, su tutte le questioni che riguardano la sessualità, c'è poco da fare, insomma. Il fondatore del cristianesimo era sessuofobo, Paolo di Tarso, e qui c'è poco da fare, la sessuofobia si è mantenuta per tutti questi livelli, e i sessuofobi sono i cosi. E uno ha un bel girare intorno e dire che non c'entra niente la pedofilia con stiamo cimbando, e poi dicono cazzate perché dicono che c'entra con l'omosessualità, che è molto peggio che non dire la cosa. È vero che da un punto di vista, cioè, è ovvio, ma non è il celibato in quanto tale, è che l'atteggiamento fondamentale della Chiesa è il suo fuoco, non ci sono cristi, cioè vedete San Paolo, quello che scrive San Paolo delle donne, cazzo, e dice che le donne sono la peggiore tentazione per gli esseri umani, per questo si devono coprire, che altro burga, altro che meno islamico e burga, leggetelo San Paolo, che va letto Dio buono, perché uno sembra ci fosse qua, che ne so, Formigoni, un signor Avati, direbbero che fa propaganda, ma io dico, leggete San Paolo, perché basta leggerlo, vi rendete conto da soli i passaggi sulle donne, di quale veleno antifemminile, non femminista, antifemminile sono pieni, rigustano di veleno antifemminile, tipo non ci sono cristi, insomma. Va bene. Allora, al di là dello scandalo, ripeto, che la cosa ha, che questo termine di post-human ha invece suscitato, da un certo punto di vista questa mostra di Page apre per tutti gli anni 90 e continua anche oggi, insomma, però è cominciata circa 20 anni fa, un po' meno di 20 anni fa, quindi si apre un dibattito culturale su questa questione del postumano, cioè che cosa significa postumano. Devo dire che gli esiti fondamentali di questo dibattito culturale sono fino adesso molto evidenti, molto. Perché il dibattito sul postumano si attesta su due posizioni, diciamo, estreme, certo, ma che sono quelle che hanno avuto più spazio sui, diciamo, giornali e più, e che se voi leggete l'ultima parte del mio saggio vedete che ce n'è per tutti e due, cioè io cerco di, diciamo, bastonarle come ovvio entrambe, perché poi magari forse non sarà chiaro che tipo di posizione propongo io, ma allora cerchiamo di ve lo esporrò in modo anche più, diciamo, schematico di come c'è, diciamo, nel libro. Praticamente per la questione del postumano noi abbiamo avuto da un lato come sulla questione della tecnologia, come nel dibattito sulla tecnologia si sono delineate le posizioni tecnofile e quelle tecnofobe, cioè le posizioni di quelli che dicono la tecnologia va bene sempre, quindi la tecnologia va male sempre. Così sulla questione del postumano si sono create due posizioni analoghe. Quindi le posizioni dei pro, di quelli favorevoli al postumano, e di quelli contrari. Tutte e due queste, come dire, queste posizioni, che, attenzione, casualmente, coincidono perlomeno in parte esattamente i pro con le posizioni tecnofile, cioè gli iper postumanisti sono in genere tecnofili, cioè quindi hanno si basano su una sopravvalutazione e su una considerazione positiva a priori della tecnologia, mentre di contro sono più vicini a posizioni tecnofobe. Le posizioni, dico pro, questo non vuol dire, allora io mi considero interno mi considero definibile come postumano come postumanista, però non mi identifico con nessuna delle due e anzi le combatto. Cerco di combatterle entrambe. La sigla che contraddistingue praticamente i pro sono i cosiddetti transumanisti. Che è una corrente di pensiero che è nata negli Stati Uniti, attenzione, un po' prima della mostra di Dej, cioè poi Dej ha fornito il nome, quindi poi sono tali, ma i transumanisti nascono storicamente già negli anni 80 e fanno riferimento ad alcune posizioni anche, come dire, sono precedenti. Invece i cognitivisti? Il cognitivismo è un'altra cosa, non c'entra con il posto, cioè, o c'entra in maniera relativa. Prende un parecchio. Sì. Adesso cercherò di spiegare perché è sconnesso. Cioè, sì, certo, sono una variante, ma loro cioè, come dire, vanno al di là del cognitivismo in quanto tale, perché hanno una... Però c'è tutta la logica. Sì, però la loro principale preoccupazione è quella. Loro non sono, cioè non è una come dire, corrente di tipo scientifico il taumarismo. È qualcosa a metà tra una setta politica e una religiosa. Sono molto simili a Scientology, molto simile a Scientology in modo molto peggiore, evidentemente, ma sono simili a Scientology perché hanno intanto hanno lo scientismo, cioè sono scientisti e Scientology è fondamentalmente scientista. Guardate che gli scientisti appunto moderni, vedete che non è impossibile che lo scientismo, cioè l'ipervalutazione della scienza, si accompagni invece con la ciarlataneria e con forme di manipolazione magica anche delle cose, perché Scientology è tipica, di quella. Però Scientology è stata fondata, da uno scrittore di fantascienza degli anni 40, quindi del periodo più tecnologico, più filotecnologico della parte di Asimov, che non so, che hanno cominciato a scrivere. I transumanisti sono, diciamo, simili. Diciamo, i cardini del punto di vista, diciamo, transumanista sono, allora, primo, diciamo, tecnofilia, cioè... quindi hanno una, suppongono che la tecnica sia non solo, come ovvio, una forza, una componente della società, quindi che ha degli effetti sociali, come ovvio che sia, ma che sia lo strumento privilegiato non solo per trasformare, per capire e per trasformare la società. Quindi il transumanista prescinde totalmente da una considerazione delle dinamiche sociali concrete. Non parla mai di processi sociali. Parla soltanto di evoluzione tecnologica letta in chiave sociale. Ma non parla veramente di conflitti sociali, di contrapposizioni, di trasformazioni, di maturazioni che avvengono all'interno della società concepita in quanto tale. Non parlo della sua essenza, attuale, no. Loro parlano sempre soltanto di tecnologia e considerano la tecnologia come la forza fondamentale della società. Il secondo punto fondamentale è quello che io chiamo il positivismo tecnologico, che cosa intendo con questo in particolare? Che il transumanista considera assolutamente diciamo descrivibile sino ai più minuti particolari il processo di sviluppo e di avanzamento, miglioramento secondo loro della tecnologia pensandolo come descrivibile lo pensano nello stesso modo come prevedibile. E questa era la posizione, per questo la chiamo positivista, perché è molto simile a quello che pensavano Kant e Spencer nell'Ottocento in modi diversi sulla, eh, sullo sviluppo della società. E il positivismo, non ci dimentichiamo, fu la corrente filosofica europea nella quale maturò il cosiddetto socialismo utopistico. Pensiamo Fourier, Owen, eccetera, Proudhon anche, però un po' fuori, ma insomma, ma diciamo, fondamentalmente diciamo, Pensiamo Owen e parla anche Fourier. E il socialismo utopistico era un socialismo, diciamo, deterministico, cioè i socialisti utopistici pensavano di poter anch'essi, intanto collegavano questo loro, diciamo, socialismo utopistico non con le forze sociali, con le dinamiche sociali, ma con le costruzioni ideali collegate con l'innovazione tecnologica. E quindi pensavano di poter prevedere. Positivismo, quindi tecnologico. Il terzo caposaldo della posizione transumanista è quello a cui faceva riferimento prima Fabio, e cioè è diciamo la concezione, la computerizzazione della mente, chiamiamola così. Il transumanista pensa che la mente umana funzioni come un computer, cioè che sia un sistema discreto e algoritmico. Complicatissimo, molto complicato, ma algoritmico. E che quindi sia possibile, questo è il presupposto sulla quale si basa diciamo, cognitivista sofisticato non ti dica mai così, però se scavi al fondo. Cioè, è quello che storicamente, e ne parleremo nelle nostre lezioni, tutta questa cosa è quella che è maturata intorno alle ricerche negli anni 50 e 60 sull'intelligenza artificiale forte. Poi alcuni di questi sono ripiegati sulla posizione detta dell'intelligenza artificiale debole. Il programma di ricerca dell'intelligenza artificiale, io avanzo timidamente l'ipotesi che sia totalmente fallito da oggi, e gli scienziati migliori lo sanno, lo dicono, non tutti certo. I transumanisti invece sono ancora attaccati a questa cosa, cioè considerano, se tu consideri il computer, cioè una macchina sequenziale o anche, come dire, parallela, algoritmica, cioè che segue determinati programmi, che segue determinate istruzioni passo per passo e arriva a risultati. Se tu consideri, va a vedere come un modello della mente, è ovvio che puoi pensare che la mente sia diciamo, replicabile al di fuori dell'hardware umano su di un hardware di altro tipo. Il concetto che i transumanisti hanno ricavato da tutto questo, e che è il punto forte, quello intorno a cui hanno costruito la loro cosa, è quello che si chiama della singolarità tecnologica. Allora, il fondatore di tutta questa cosa si chiama Max Moore. Una lezione, tesoro. Ti chiamo dopo, ciao. Si chiama Max Moore, ma il personaggio che ha dato più contributi su questo tema della teoria si chiama Ray Kurzweil. Allora, siccome queste persone qui hanno dei seguaci in Italia che ora sono meno, un tempo erano fino a 10 anni fa abbastanza agguerriti, se voi andate a cercare il sito www.estropico.com, comunque dovrebbe essere citato anche lì nel libro, Estropico, e chi ha voglia o di farsi convincere dalle, diciamo, tesi di Kurzweil o di avere materiale per attaccarlo, c'è già tempo e voglia, abbiamo un po' di tempo, lo può fare, allora vi scaricate tutta l'opera fondamentale di Kurzweil sulla singolarità, tradotta, devo dire, in un testo italiano, ma sono cazzi vostri, se volete c'è anche in inglese, però ci sono i siti inglesi. Questo, non capisci questo? No, non si vede. Destro. Estropico. Estropia è un neologismo, come tutti capite, fondato su entropia, solo che mentre entropia ha una valenza negativa, perché l'entropia è una degradazione dell'energia, l'estropia dovrebbe essere il contrario della entropia, e quindi un arricchimento dell'energia. È un festival di cose, sono molto divertenti, io non mi arrabbio più, mi sono arrabbiato le prime volte che lo lette, perché confesso che le prime volte che sento parlare di questa cosa non sono parecchio prevenuto 10 anni fa, ero 20 anni fa, questo qua magari più grave, cioè basta leggere, come dire, vaccinato, quindi evidentemente non, quindi basta leggere qualche pagina e ti rendi conto di questi loro, diciamo, presupposti. Secondo il transumanista è in corso una, allora questa è l'interpretazione, come dire, estremizzata, estremistica e banalizzata del postumano, perché, come dire, banale. Il transumanista è convinto che sia in... che, come dire, che il termine postumano vada preso in senso letterale, nel senso che stiamo assistendo alla nascita di una nuova specie biologica. L'ibridazione con la tecnologia, secondo i transumanisti, sta portando alla nascita di una nuova specie, di una nuova specie biologica. Che cos'è che loro chiamano singolarità tecnologica? La fine della biologia. Sì, una nuova biologica che contemporaneamente è la prima specie transbiologica. Sì. Però adesso ti dico come la descrivono, poi se la vai a vedere di sopra vedi tu come possono. Dunque, intanto bisogna spiegare il termine singolarità. Allora, singolarità è un termine della matematica e della fisica e indica quei punti o quei momenti particolari di quei punti di un sistema matematico, per esempio di una curva, o quei istanti della storia, della vita di un sistema fisico nei quali si ha un improvviso cambiamento delle condizioni di stabilità del fenomeno in questione. Il tipico esempio di una singolarità matematica è una curva che abbia una tangente verticale. Se voi avete il valore x con 0 e avete una funzione f di x, e voi sapete che il limite per x che tende a x con 0 della funzione f di x è uguale a infinito, voi dite che x con 0 è un punto di singolarità per la curva. Perché? Perché quanto più vi avvicinate al valore x con 0, tanto più il valore della vostra funzione cresce, e cresce in modo tanto più smisurato e tanto più sregolato quanto più vi avvicinate a x con 0. A volte addirittura si ha la situazione in cui si ha addirittura un rapido capovolgimento, cioè a sinistra del valore x con 0 la curva tende a più infinito, a destra tende a meno infinito, cioè fa così, passando da una parte all'altra con 0, addirittura voi avete un salto del valore della funzione non come dire misurabile, no? Che fa da più infinito a meno infinito, addirittura sia valore. Questa è una singolarità matematica. Una singolarità fisica è è quell'istante nel quale un sistema fisico, per esempio un gas, dopo avere variato con continuità i propri parametri, per esempio temperatura, pressione, volume, all'avvicinarsi di un certo istante temporale li cambia in maniera improvvisa. Quindi per esempio liquefatto. Le singolarità sono tutti i momenti, per esempio quando fate bollire la pasta, quando fate bollire l'acqua per la pasta, voi fate sempre una singolarità. Perché tutti i liquidi che bollono a una temperatura particolare. Non è come qua, perché quando l'acqua bolle, però mentre per esempio la temperatura dell'acqua quando voi la riscaldate cresce a poco da 0 gradi, no? Perché nessuno metà di del ghiaccio, ma insomma dai 20 gradi, cresce a poco a poco 40, 50, 60, quando arriva al punto di ebollizione, arriva a 100 gradi e da quel punto in poi rimane stabile, non aumenta più la temperatura sino a che tutta l'acqua non si è trasformata in gas, cioè in vapore acqueo. E quella è una tipica singolarità, perché prima di quel momento e dopo quel momento avete delle variazioni continue dei parametri fisici. In quell'istante avete un piccolo, nel caso dell'acqua, un cambiamento catastrofico. Ebollizione, fusione e solidificazione sono entrambi fenomeni con singolarità. Fusione delle materie metalliche, perché ci sono altri solidi che non fondono soltanto i metalli, e fanno la stessa cosa dell'ebollizione, no? Voi riscaldate del ferro fino alla temperatura, fino a che lo riscaldate con la temperatura il ferro diventa più caldo, da un certo punto in poi diventa liquido, mentre diventa liquido non cambia temperatura e non la cambia se perché non è tutto diventato liquido, ma non tutti i solidi, tutti i liquidi bollono, tutto quasi tutti, sì. No, non tutti i solidi fondono, quindi la fusione è un po' diversa, eccetera. L'evento fisico, la singolarità più nota e più diciamo famosa, e anche quella più diciamo radicale, è il Big Bang, e cioè l'ipotetico istante di nascita dell'universo. In quel caso non possiamo dire quello che è successo prima perché non sappiamo, anzi, diciamo, per ipotesi non c'era niente prima, né tempo, né spazio, né materia, né nulla. In un certo istante nasce, in un istante si crea l'universo, però si crea in condizioni così particolari e così estreme che il comportamento intorno a quel momento è molto diverso da quello che c'è dopo. Molto vuol dire nei primi milionesimi di secondo dopo, poi dopo, già dopo un secondo dal Big Bang l'universo è più piccolo di come adesso, eccetera, sicuramente è una pallina sola, però è già più o meno l'universo. Ma intorno al Big Bang abbiamo un comportamento assolutamente... Si potrebbe dire che una singolarità in fisica è una piccola catastrofe, cioè c'è un cambiamento immediato, rapido e discontinuo, discontinuo delle condizioni di variabilità di un certo diciamo, sistema. Che cosa intende Kurzweil per singolarità tecnologica? Kurzweil e i transumanisti sostengono che che l'evoluzione della tecnologia, che obiettivamente è sempre più accelerata e presenta dei ritmi, questo è un dato diciamo di fatto, quindi loro dicono che è accelerata, a un certo punto si arriverà a una specie di piccola catastrofe. Qual è questa? Perché io dico, ma quando si è? E loro hanno, perché loro hanno già la data, questo vedete il loro positivismo tecnologico. No, hanno già la data. Racconto e dice che la data è 2050. Nel 2050 noi assisteremo a quello che Kurzweil chiama la singolarità tecnologica. Adesso voi lo so che tutti voi, che quelli più acuti di voi pensano che io sto maltrattando e vi sto presentando appositamente, siccome sono avversario, vi presento appositamente una versione caricaturale del pensiero dei randomisti. Per questo che ci interessa, almeno qualcuno di voi leggesse qualche pagina di corso, perché dovete darvi l'idea, dovete sperimentare davvero se sono così diversi da come si dicono cose così diverse, cercano di dire nel modo più neutro possibile, ma insomma. Allora, dice Kurzweil che La singolarità tecnologica, cioè che il parametro e il fattore più importante dell'evoluzione tecnologica degli ultimi, diciamo, decenni sta nella simbiosi con l'essere umano, quindi con la biologia umana. Quindi sta, diciamo, nell'accoppiamento uomo-computer, nell'accoppiamento uomo-tecnologia. E che, dice lui, è già in insomma, sviluppo, e che credo che sia vero, insomma, io ho scritto un libro anch'io su questa cosa, che è in sviluppo una figura che già è una figura, diciamo, simbiotica di uomo e insomma, tecnologia, che si chiama cyborg, che si chiama cybernetica. Ora, dice Kurzweil che il cyborg evolve rapidamente. Qual è il punto di catastrofe? Qual è il momento in cui nascerà questo qualcosa di, come dire, veramente nuovo? La condizione proposta da Kurzweil è la seguente. La singolarità tecnologica è il momento nel quale gli esseri umani non aumentati tecnologicamente non riescono più a seguire, a restare in connessione, a mettersi in contatto e quindi a capire quello che dicono e fanno gli esseri umani tecnologicamente aumentati. Questa è la singolarità. E questa è, per forza, la nascita di una nuova specie. Quando questa specie di transizione, ecco perché si chiamano transumanisti, perché dicono c'è una transizione adesso, e infatti loro dicono, a loro il termine post-umano per il loro movimento non piace, perché loro dicono il post-umano è quello che succederà dopo la finalità, diciamo, tecnologica. Allora veramente avremo qualcosa che dopo l'uomo. Adesso siamo in una fase di transumanesimo, c'è una transizione verso qualche cosa che verrà dopo. Il criterio, come voi capite, è totalmente soggettivo, il criterio proposto, perché dice quando gli umani non tecnologicamente aumentati non riusciranno più a capire quello che dicono gli umani tecnologicamente aumentati, gli umani ibridi, i cyborg, no? Il cyborg arriverà a un punto tale che a un certo punto chi oggi i diciamo, non cyborg e i cyborg si possono ancora comprendere, dice domani non si potranno comprendere. La cosa criticabile da questo punto di vista per me di questo discorso non è tanto, lo so che voi pensate, vabbè, perché dice che la cosa più grave, ed è per questo che i transumanisti sono fondamentalmente degli essenzialisti, cioè loro credono nella definibilità dell'essere umano in termini positivi. Possiamo dire cos'è l'essere umano e quindi possiamo anche dire che cosa non è e che cosa non sarà e che questa roba che esce fuori. La cosa più assurda, secondo me, è questa loro divisione già sin da ora tra esseri umani tecnologicamente aumentati ed esseri umani tecnologicamente non aumentati, come se la differenza fondamentale fosse tra noi occidentali che abbiamo il cellulare e che ne so, gli aborigeni, gli aborigeni australiani o i poveri contadini del Bangladesh che non hanno il cellulare. O tra chi ha un impianto, chi si è fatto sostituire un pezzo della coclea per chi ha messo sordo e per sentire meglio, e chi invece ha le orecchie naturali. Come se la differenza fosse tra chi ha gli occhi naturali e chi ha l'occhio artificiale, tra chi ha la mano naturale e chi ha la mano artificiale nel caso che ci sia. Come se la vera differenza fosse tra noi che abbiamo le gambe e Pistorius che dal ginocchio in giù, diciamo, non ce l'ha. Manca totalmente l'idea che tutti questi cambiamenti agiscono sulla specie umana in quanto tale, su tutti, su chi ce l'ha e su chi non ce l'ha. L'avvento della scrittura, 5.000 anni fa, agì, certo che creò delle caste, quello che va, creò delle dinamiche sociali che influirono sulla vita di tutti, non solo dello scriba egiziano o dell'amanuense medievale, ma che sapevano scrivere, ma anche su quelli che non sapevano scrivere. La civiltà della scrittura è civiltà della scrittura perché scrive e perché non scrive, cambiano complessivamente le condizioni sociali. E certamente ci sono delle divisioni e delle divaricazioni di classe, ma le divisioni e le divaricazioni di classe avvengono all'interno di un quadro biologico e culturale unitario. All'interno ci sono i due di classe, e ci sono gli stronzi e quelli che se la approfittano e quelli che sono per il culo. Questo è ovvio, questo c'è sempre stato, ma non dicono questo, non dicono, pretendono di trasformare le dinamiche sociali in dinamiche biologiche o tecnologiche o biotecnologiche. È questa la cosa assurda. È questo che non consente, quindi qui c'è l'ipostasi, l'ipostatizzazione, cioè il prendere una cosa e proiettarla su un altro livello, l'incomprensione dell'essere umano come fatto sociale, come prodotto sociale, no? Come fatto di socialità, fatto di diciamo relazioni, l'isolamento di alcune delle caratteristiche particolari, e quindi la costruzione di questo modello totalmente astratto e ovviamente totalmente ridicolo, perché poi dopo sono vedremo, io sarò già morto nel 2050, ma vi do il compito a voi, insomma, chi se vuole lo fare, qui ha una lettera a Curso, e gli dica, cercare a Curso, cercare di essere, aveva già detto che le cose non saranno, perché nel 2050 si sarà la nascita di una nuova specie, ma voi capite che ora tutto questo però è, attenzione, perché questa è la cosa ridicola, ma la cosa invece, come dire, preoccupante e pericolosa, è che naturalmente tutto questo è non ovviamente l'unico modo, ma è uno tra i tanti modi di creare una ideologia tecnocratica, una ideologia, scusate, di appoggio alla tecnocrazia, per cui ancora una volta non si guarda più ai conflitti sociali, agli interessi materiali delle persone che vivono, al modo in cui la tecnologia cambia le nostre vite e al modo in cui possiamo gestire, guidare, indirizzare o no questi fenomeni nell'interesse di chi non ha e non gestisce il potere, oppure nell'interesse, diciamo, delle normali dinamiche sociali, di scontro sociale e di conflitto sociale che sono pari potere per tutti. Tutto questo viene abolito, messo tra parentesi, e quindi siccome non lo guardiamo e l'abbiamo messo dietro l'angolo, perché siamo concentrati su questa ipostasi della tecnologia e di questa cosiddetto simulacro e spauracchio della mente umana che si combina con elementi tecnologici e diventa qualche cosa di biologicamente diverso, no? Allora, è qui che sta, per adesso ricordare meglio, è qui che sta la post-biologia. Siccome la nuova specie che secondo loro nascerà è la specie degli umani mutati tecnologicamente, è chiaro che siamo oltre la biologia, perché su una base biologica che è la nostra abbiamo costruito un essere ibrido, ma invece di considerare, come dire, la continuità del processo, c'è una arbitraria sopravvalutazione della discontinuità, che ci sarà sicuramente, ci saranno discontinuità, io non voglio dire mica di notte, è tutta la vita che cerco di spiegare le discontinuità, ma le realtà avvengono su uno sfondo di continuità sociale e soprattutto di, non sono questi i tempi nei quali si creano delle specie nuove. Homo sapiens ha una storia, Homo sapiens avrà 400.000 anni se va bene, ma c'è una storia culturale c'è una storia biologica di 10 volte tanto. I primi nostri parenti, le prime specie classificabili come affini a noi, anche se non sapiens, più o meno, datano a 4 milioni e mezzo di anni fa. Allora ci vuole minimo quel milioncino di anni, quei 200-300.000 anni, quei minimo a dir poco ci vogliono, non è che il signor Curzio dice guardate da qui a 40 anni, quando si trova qui a 50 anni, avremo la singolarità e avremo la ma insomma, ci teniamo conto. Ma soprattutto quello che è, quello che va proprio culturalmente combattuto per me, perché è una come dire, cosa culturale e come dire, politica, perché queste sono le come dire, ideologie di cui si ammantano la destra americana, i repubblicani di Gingrich quando c'era il primo Bush e poi il primo Bush soprattutto all'altro che negli anni 90, era pieno di robe di questo tipo, cioè Gingrich che è stato la destra repubblicana negli Stati Uniti è sempre stata, come anche qua in tanti altri paesi, si sono presentati come i difensori delle nuove tecnologie, quelli che più di altri erano in grado di sviluppare la rete, di costruire le connessioni, perché? Ma perché dietro c'era questo genere di cosa, perché con questo tipo di mentalità la manipolazione degli esseri umani è come dire un dato scontato. È come se fosse questo modo di pensare è coerente, anche se loro, molti di loro, da un punto di vista politico, si autopensano di sinistra. Io ho conosciuto la moglie di Max Moore, che è stata mia, non mia allieva, ma era allieva, che ora da finito adesso, dei corsi di dottorato inglese, di cui io dirigo la sezione italiana, quindi varie volte l'ho visto, ci siamo parlati, eccetera, una signora che si chiama Natasha Rita Moore, una signora simpatica, avrà 55 anni, forse 60, che ne dimostra 40, che è stata una ex reginetta di bellezza, insomma una tipa comoda, lunga, che poi ha fatto una serie di robe di ringiovanimento, perché poi loro ci hanno avuto una parola pratica, per cui dice, ah sì, mi sono dimenticato, perché ce n'è sempre una di più, perché ovviamente dopo la singolarità tecnologica, da che cosa sarà caratterizzata questa nuova specie che viene fuori? Da una cazzatina, insomma, una cosiddetta da niente, che sarà l'immortalità, ovviamente. Quindi si sconfigge la morte, la nascita di una nuova specie serve per sconfiggere la cosa più noiosa che c'è negli esseri umani, io voglio che muore. Uno si diverte così tanto, poi ritorno, che cazzo, siamo lì. Ma Dio buono. E allora invece sconfiggiamo, perché ovviamente ci facciamo il cuore di plagio e tanto per due volte diventiamo immortali. Quindi questa è veramente la peggiore fantascienza, però scritticamente organizzata, uno dice, capisco che molti possono potrebbero rimproverare anche me nel mio piccolo nel mio piccolissimo, costruito le condizioni, diciamo, culturali e dell'immaginario per cui poi esce questa accidente qua, però pensatelo come diavolo volete. Basta, va bene. Il presupposto, no, finito su questo, poi invece sul contro vi dico l'altra cosa, perché ahimè il contro purtroppo è gran parte dei santoni della sinistra italiana e europea, il marxismo più ortodosso e più efficiente e rivoluzionario, Pietro Ingrao e Mario Tronti. Però, allora, finisco questa cosa diciamo per umanisti, segnalando il punto sul quale torneremo dopo, soprattutto sulla scorta di questo libro che non posso adottare purtroppo perché è in inglese, che è il libro della Catherine Kells, che si chiama How We Became Posthuman, ma che è uno dei libri migliori sul postumano che ci siano. Adesso forse il postumano esce il libro che segue questo, che è My Mother Was a Computer, che sto traducendo con una vostra compagna, che sta uscendo, ma insomma. Però questo qui purtroppo non lo posso tradurre perché non so perché ha allora il punto culturalmente fondamentale che sta dietro a questa cosa e che è il punto di contatto con l'individuo che diceva prima Fabio è diciamo la concezione della vita come informazione e quindi l'idea della separabilità del contenuto informazionale della vita dal supporto biologico. Se la vita è concepita principalmente come trasmissione di informazione, cioè come la trasmissione di un concetto astratto, no? Che è l'informazione, le informazioni, come stanno nelle cellule umane, così possono essere simulate dalle cellule di memoria di un computer, e così quindi voi potete pensare di trasferire l'informazione dal corpo umano a un supporto fuori del corpo umano. Il personaggio più importante da questo punto di vista non è Ray Kurzweil, ma è Hans Moravec, e diciamo il libro più importante da questo punto di vista è Mind Children, che infatti è un libro degli anni 80, quindi precedente la nascita del movimento transumanista, in cui Moravec, che è uno scienziato, un diciamo, roboticista, un costruttore di robot, quindi pensano che bravo, se la cava bene in queste cose, però ha già in questo libro, che mi sembra sia dell'88, però non sono sicuro, ma è dell'87, comunque c'è sul libro mio, ci sono tutte le cose, le date, le sapote, non mi ricordo adesso, non lo so. L'idea di fondo di Hans Moravec è appunto che sia possibile fare quello che lui chiama il personality download. La sua idea della costruzione di un uomo, di una mente artificiale, di una mente umana, però artificiale, è quella di, cioè di basarsi sui veri e propri processi fisico-chimici del cervello. Cioè, lui ipotizza che sia possibile, che sarà possibile prima o poi costruire una macchina, una TAC, una macchina proprio che funzioni in questo modo, in cui una macchina che faccia una, chiamiamola una fotografia, no? È come se facesse delle ideali sezioni del nostro cervello, quindi sia in grado di descrivere fisicamente ogni singolo neurone del nostro cervello e di riprodurlo simulato su un computer, di riprodurre tutte le sue caratteristiche fisico-chimiche, quindi l'attività diciamo, elettrica, quella di chimica, le sostanze chimiche che passano una dalla l'altra, e dice questa ipotetica, chiamiamola scannerizzazione, no? Fisico-chimica del nostro cervello, riprodotta su una macchina, sarebbe in grado di riprodurre sul computer esattamente i nostri strumenti mentali, quindi saremo noi. La nostra personalità è scaricabile, personality download. Voi capite che per pensare questa cosa voi dovete partire dal presupposto che l'informazione, questa cosiddetta informazione di cui la nostra mente sarebbe portatrice, è qualcosa che è separabile, diciamo, da noi. Quindi è qualcosa che è descrivibile, cioè che c'è un prodotto, che la nostra informazione è un prodotto, che la nostra attività mentale è un prodotto. Quindi descrivibile in termini di informazione e non in termini di processo. O se è descrivibile in termini di processo, che questo processo sia totalmente descrivibile in maniera algoritmica. L'obiezione che loro, il modo in cui queste persone si difendono dall'accusa è di accusare chiunque non la pensi così di spiritualismo. Dice, se non pensate, mentre i veri spiritualisti sono loro, sono loro, perché il monista, il continuista vi dirà, non può concepire i processi di pensiero come separati dall'organismo materiale, dal corpo materiale che gli succede. Il monista e il continuista penserà che è il corpo che pensa. Poi che il corpo sia o meno una macchina, se anche fosse una macchina, come diceva Cartesio, il corpo, è una macchina di tipo molto particolare, è una macchina biologica, che ha tutta la complessità, non solo cerebrale, ma complessivamente somatica, del corpo di un mammifero evoluto. Ciò che è separabile da noi sono alcune particolari, limitate produzioni mentali, per esempio quelle che vengono simbolizzate con il linguaggio, certo. Il linguaggio è qualcosa di me si sta staccando da me, è tre ore che si stacca da me e si angoscia le orecchie, certo. Ma questo non è caronia, non sono tutto io, quello che ho detto non rappresenta il tutto di me. Non solo quello che parlo, in questo momento, mentre parlo, nella mia testa, ci sono 10.000 altre cose di cui io non sono consapevole, tutto questo è irrappresentabile, non è rappresentabile, non posso algoritmizzare i miei processi mentali, come per presentarli di nessuno. E il vero spiritualista è, in forma certamente aggiornata, in forma moderna, eccetera, esattamente colui che invece concepisce il contenuto, identifica i processi mentali con i loro contenuti informativi e quindi pensa che questi contenuti possano essere presi, portati fuori, trasferiti su una macchina, eccetera, eccetera. Che, detto in altri termini, sono gli stessi punti di partenza che aveva il programma di ricerca di Richard Forte e su cui è nata questa nuova scuola di psicologia 40 anni fa chiamata Condivisa. Adesso il turismo è cambiato tantissimo in questi anni, eccetera, ma al fondo non ha cambiato il punto di partenza che aveva detto questo, che in qualche modo il pensiero sia riducibile all'informazione, il processo mentale sia descrivibile con un gran numero di algoritmi, tanti, ne erano tanti, ma sono tutti algoritmi, non ci sono crisi, soprattutto con l'algoritmo, e questo è qua. Quindi questo è il modo, di rendere, di prendere alla lettera, per così dire, il discorso del postumano, di fare questo trasferimento, io dico indebito, dalla tecnologia alla biologia e alla cultura, e quindi questi sono gli amici. Allora, dagli amici mi guardo io, e dai nemici mi guardo io, e dei nemici, cioè di Ingrao, Barcellona e Tronti, parleremo la prossima volta, che sono gran parte italiani.